Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. L'ultima generazione di pale eoliche si spinge a cercare il vento a oltre 100 metri, anche 120, ma siamo al limite. Più alte di così queste benedette pale non si possono fare. Il rischio è che collassino su se stesse o che comunque non siano in grado di reggere le forze a cui sono sottoposte. Insomma, l'eolico così come lo conosciamo è un po' a fine corsa. Ma il vento si trova lassù, c'è poco da fare. Più in alto salite e più è intenso, e più in alto salite più è costante. A 10.000 metri di altitudine, una quota che insomma probabilmente non sarà mai sfruttata, il vento mette a disposizione una potenza 100 volte superiore a quella che mette a disposizione a 80 metri, ma già a 800 metri di quota la potenza del vento è 4 volte superiore a quella che riescono più o meno a intercettare le più grandi pale eoliche. Come sia possibile arrivare lassù? Beh, lo chiediamo a Marcello Corongiu. Buonasera Marcello Corongiu. Buonasera. Allora, Corongiu è project manager del progetto CAI. È un progetto nato alcuni anni fa che ormai è prossimo a vedere entrare in funzione i primi impianti. Corongiu, la parola chiave, mi corregga se sbaglio, è aquilone. È giusto, è proprio la parola chiave. Diciamo che è un'alternativa all'estremità delle pale nelle turbine tradizionali. Lei deve pensare che la parte che trasforma l'energia del vento in elettricità nelle turbine tradizionali è sostanzialmente l'estremità delle pale. Quella che intercetta più potenza, come dire, più efficiente nel fare questo lavoro. Sì. Esattamente, quindi l'idea di base era: se noi togliamo tutto il resto e lasciamo solo l'estremità, aumentiamo di molto l'efficienza della macchina in sé, e se poi questa estremità le portiamo in alto andiamo a sfruttare un vento che è molto più potente, molto più stabile. E avete scelto questo oggetto che è il kite. In realtà io ho detto aquilone, in inglese kite, ma in realtà è proprio simile al kite, quello del kitesurf, no? Esattamente. Quella specie di banda di tessuto con la quale si fanno le voluzioni con il surf ai piedi. Diciamo che abbiamo iniziato a fare dei test sul nostro prototipo da 40 kW nel 2006 usando dei kite commerciali, perché ovviamente era quello che abbiamo trovato sul così, mercato. Certo. Ecco, senta, ma proviamo a spiegare come si fa a produrre energia con un kite, con un aquilone. Ma sì, in realtà il concetto è abbastanza semplice. Il kite è un'ala che vola nel vento, e volando genera una portanza, cioè una trazione perpendicolare alla direzione di volo. Si tende il cavo a cui è attaccato l'aquilone, insomma, in parole povere. Viene trasmesso al cavo a cui è attaccato. Questo cavo arriva fino a terra. A terra ci sono delle macchine che sono sostanzialmente come una dinamo, sono degli alternatori che vengono messi in rotazione da questo cavo. Che si svolge, no? Perché c'è proprio, ecco, c'è un rocchetto di cavo a terra, esattamente come si fa quando si manda su un aquilone sulla spiaggia, che bisogna svolgere quei rocchetti. Questo rocchettone, per così dire, è attaccato a un generatore elettrico. Esattamente. Diciamo che prima di arrivare al rocchettone passa il cavo, fa un giro intorno a una puleggia che è a sua volta attaccata a un altro alternatore, quindi parte della forza viene estratta da un primo alternatore e poi va sul rocchettone, che noi chiamiamo tamburo, che estrae, diciamo, la forza residua. Senta, se uno va a vedere anche lì un po' sul vostro sito, vede un oggetto simile a una specie di cupola con in cima una canna da pesca. Sì. A cui è attaccato l'aquilone, ovviamente in questo caso il filo si alza verso il cielo invece di finire in acqua. Esattamente. Questa specie di canna da pesca a cosa serve? Ma allora, uno dei problemi che sin dall'inizio abbiamo dovuto affrontare è quello della imprevedibilità del vento, nel senso, certo, che il vento anche in alta quota, dove è più stabile, però ha sempre dei momenti di delle raffiche, eccetera. La canna da pesca, tra le varie funzioni, ha quella di fare da canna da pesca, nel senso che ammortizza in una certa misura questi strappi che arrivano quando ci sono le raffiche di vento, insomma. Senta, voi fate delle evoluzioni, degli otto fate disegnare nel cielo a questo aquilone che arriva fino a quanto? 800 metri di altezza, no? Se non sbaglio. No, diciamo che adesso la macchina che abbiamo, che insomma stiamo terminando, ha cavi per 2000 metri, quindi il nostro limite attuale è quello dell'area di non volo concessa dalle autorità aeronautiche, che se non vado errato intorno ai 2500 metri. Però diciamo dovete che star sotto gli aerei, insomma. Diciamo che il ciclo di produzione noi prevediamo di farlo tra i 1000 e i 1500 metri, grosso modo, perché lì arriviamo a velocità del vento che ci permette di produrre alla potenza nominale. Ecco, perché che cosa succede? Abbiamo detto che voi svolgete questo cavo, quindi l'aquilone sale mano a mano che gli fate descrivere questi 8, quando arrivate a 2000 metri a questo punto dovete scendere. Ma quando scendete a questo punto non perdete l'energia che avete prodotto salendo? Perché dovete tirare l'aquilone. Abbiamo una quota minima, perché l'aquilone noi lo mettiamo in una posizione per cui perde la sua portanza, diventa come una bandiera, grosso modo, uno straccio, ecco, che casca, giù, insomma. E noi dobbiamo solo accelerarne la caduta per diciamo aumentare il tempo nel tempo ciclo di produzione di generazione. Ma lei pensi che in trazione sono decine le tonnellate di tiro sui cavi, sì. Mentre in recupero dell'ala abbiamo decine di chili, quindi un fattore 1000 di differenza praticamente. Il rapporto energetico. Senta, in pochissimi secondi riesce a dirmi dove nascerà il primo impianto, perché lo so che lo state costruendo, e i costi per megawatt di questa energia, perché poi il punto è quello. Certo. Ma allora, il primo impianto lo andremo a testare a breve in provincia di Cuneo. A breve quanto sarebbe? È un'impresa difficile, quindi non vorrei dire una cosa che dovrei smentire, però diciamo plausibilmente entro l'estate. Ecco. Entro l'estate, più o meno, insomma. E il costo a megawatt, mi dica un numero, dobbiamo chiudere? Circa orientativamente 1 milione a megawatt nominale per la macchina, un costo di produzione previsto in fase operativa tra i 50 e i 90 euro per megawattora. Beh, insomma, il costo della corrente elettrica, quindi insomma sareste già in grid parity. Esattamente, quello che pensiamo è questo. Va bene, Corongiu, però noi non abbiamo finito, ci risentiamo domani, d'accordo? Va bene, buonasera. È tutto, a domani.